Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Caro Giulio, ti scrivo per la prima volta. Ti ascolto sempre in ufficio mentre faccio gli straordinari, perché io lavoro con i miei ritmi e resto sempre indietro. Eclettica mi faceva paura. Mi difendevo, pensando che fosse troppo culturale per me, lontano dai miei gusti. È strano come per le proprie mancanze si proiettino difetti inesistenti su chi ci mette a disagio. Ma quando hai letto l'incipit di Casino Totale di Iso, improvvisamente ho avuto la sensazione di vagare in mondo di suoni e parole che mi venivano offerte come frutti pendenti da alberi. Dovevo solo allungare la mano per saziarmi e per assaporare gusti sconosciuti. Ora non ho più paura della mia ignoranza. Cerco semplicemente di curarla. La musica e le parole non mi distraggono dal lavoro ed il lavoro non mi distrae dalle sensazioni. È strano, ma amo questi momenti. Le dita scorrono sulla tastiera, gli occhi soltanto da una parte all'altra del video e della scrivania. Le orecchie sono tese verso i suoni, il cuore aperto alle emozioni. Il Joker del database. Ho voluto aprire con le parole di questo ascoltatore di Eclettica che si è manifestato proprio in occasione della malaugurata chiusura della radio. Ed è anche uno degli aspetti positivi di questo momento, quello di vedere quanti eravate dall'altra parte del microfono, delle radioline che in molti hanno intenzione di abbandonare da qualche parte. L'ultimo giorno di trasmissione della radio eravate così in tanti che non vi manifestavate e c'è voluta proprio questa, ripeto, malaugurata occasione per farvi venire alla luce. Per noi è bello scoprire che eravate così in tanti. Giulio Caperdoni apre così Eclettica come tutti i giorni alle ore 19 e si andrà avanti fino alle ore 20. Django era un gitano di origine belga, un chitarrista che aveva inventato un suo stile ancora oggi insuperato, qualcosa di veramente unico. Suonava la chitarra in maniera sorprendente, adoperando solo tre dita della mano sinistra, perché le altre erano rimaste orribilmente ustionate quando da bambino la roulotte in cui dormiva aveva preso fuoco. Grappelli era totalmente differente da Django. Era figlio di una aristocratica lady inglese, di nazionalità francese, e con padre italiano di Alatri. Era elegante e raffinato come un sofisticato e saporitissimo cocktail. Sul violino improvvisava in maniera personalissima, senza prendere nulla dai grandi violinisti della storia del jazz, Joe Venuti e Ray Nance, che lo avevano preceduto. Grappelli è stato il creatore di uno stile tutto suo, impossibile confonderlo con altri. La prima volta che venne a Roma, racconta Adriano Mazzoletti, rimase comunque sconcertato nell'ascoltare un violinista italiano, Alfio Grasso, che suonava in un tabaren in Via Nazionale, il Mille Luci. Dopo poche battute di Hot, capì che forse non era il caso di tirare fuori lo strumento e si mise al pianoforte, che suonava benissimo, e non si alzò per tutta la serata. Questo era ancora Billie Holiday, che palle, di Carlo Loffredo. Did you lose yourself? In the mirror today, what did you see? As you were staring so vacantly, what did you see? As you were staring so blissfully, and when you turned. Behind your crown of thorns, Yes. I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. It's called Daisy. Daisy. Daisy. Give me your answer, too. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage. But you look sweet. As I ride past you in the reception room, I can sense no bitterness, can feel no gloom. Are you all this happy? Oh, what has escaped me? As I clean my throat, I mystify. I cut out the essentials, but I never lie. It's no act of random, it's calculated boredom. And when you leave me alone, I pick up the phone to die. There's someone I know who knows how I look when I cry. When I try to get a minute's rest, there's always someone trying to do their best to exhaust me completely, though they phrase it sweetly. Someone's dog or someone's new wet kid. What they didn't do and what they did. Too much information for one brain to sustain. And especially when it doesn't make sense to me. Cause when I try to be sincere, to come a bit near, they leave. nell'ordine Stati Uniti e Svezia. Così è stato eclettica dal punto di vista della geografia per questi primi minuti, e nel giro di qualche secondo sarà Inghilterra, eclettica che è disponibile in podcasting da tenere nelle vostre biblioteche digitali, anche se un progetto memoria è partito su Gente Strana e noi vogliamo portarlo avanti anche su www.rockfamily.it. Ogni suggerimento, ogni collaborazione da questo punto di vista è benvenuto per il progetto memoria di Rock FM. Vi dicevo Inghilterra, Quiet Village è il nome del duo che ci stiamo per ascoltare, ma prima mi sto accorgendo in questo momento che stavo per preannunciarvi il prossimo pezzo, vi devo dire che cosa già vi siete ascoltati. Vi dicevo Stati Uniti, ovvero sia The Pharmacy con Mirror, e poi Peter Moran, ovvero sia il Peter di Peter, Bjorn and John, che è uscito con un album solista dal quale ho estratto Social Competence. Duo Quiet Village che basa la sua musica sui campionamenti, anche se ho letto in una recente intervista che ormai è impossibile riuscire a fare dischi completamente basati sui campionamenti come erano stati fatti anni fa. Questa era un'intervista a Beck, il quale aveva basato sui samples il suo Odelay, così come i Beastie Boys avevano basato Paul's Boutique o tante altre band avevano basato le loro opere. A me viene in mente il grandissimo DJ Shadow. I Quiet Village però riescono ancora oggi a tenere in vita un intero progetto basato sui campionamenti senza dover spendere troppi soldi, perché poi la questione è questa: difficile trovare campioni buoni a prezzi accettabili. Quiet Village, che ci ascoltiamo dall'album in uscita il 13 di maggio per K7 dal titolo Silent Movie con Circus of Horror. We'll be right back. Noi, per Francavilla, eravamo stati la trasgressione, un piccolo fremito di follia estiva. Su quella spiaggia le paesane facevano ancora il bagno protette dalle pesanti sottovesti nere. Le signore evolute, quelle che avevano viaggiato il mondo, indossavano castigati costumi laminati alla Esther Williams e i bikini erano solo sogni inconfessabili. Il mio pianista, Leo di San Felice, discendente della celebre Luisa, scendeva in spiaggia con un microscopico costumino a fiori, tipo perizoma africano, e sandali alla schiava comprati a Capri, con i capelli un giorno blu, un giorno tiziano e un altro biondo platino. Fu un trauma per tutti. Una volta mi convocò il commissario, sconvolto, chiedendomi imbarazzatissimo di intervenire per frenare l'estrosità del mio pianista che stava diventando lo scandalo del paese. Inutile dirvi che dopo pochi giorni Leo di San Felice era conteso dagli ombrelloni più in di Francavilla. Questo era ancora Billie Holiday, Che palle, di Carlo Loffredo. Oh, That